Radiazione lunedì 4 maggio, oggi siamo andati con una mezz'ora, pure quasi 40 minuti di ritardo in diretta a causa di problemi nostri tecnici. Non era un problema di connessione, nulla di preoccupante, di quelli che capitavano fino a poco tempo fa, quindi era solo giusto un problema di nostro. Però siamo qua, quindi come tutti i lunedì sarà una diretta che prevede controinformazione e soprattutto la lettura, oggi l'ultima lettura per quanto riguarda Nessuno ci salva di Sergio Spiasecchi. Poi salutiamo Sergio Spiasecchi, e dalla settimana prossima, se non arrivano dei consigli entro 2-3 giorni sul prossimo libro da leggere qui su Radiazione. Anche se ci ascoltate in podcast, vi rinnoviamo l'invito a inviarci suggerimenti. Sì, infatti, poi chi ascolta i podcast, e sono tanti che ascoltano i podcast, ricordo che tramite la mail di Radiazione potete anche mandare questi consigli di letture da fare su Radiazione. Allora, consigli fate alla mail che è radiazioneautistici.org, dove oltre ai consigli potete anche mandare news, comunicati, scritti, tutto quello che può servire per dare una mano a Radiazione nell'aggiornamento del sito per quanto riguarda la controinformazione. Il sito di Radiazione è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete per l'appunto riascoltare i podcast delle dirette d'azione degli ultimi 3 anni, non tutte insieme, mi martellerete i coglioni ad ascoltare 3 anni di podcast, però stanno là, chi vuole ascoltarli li ascolta, oppure nella pagina download di Edizioni Radiazione ci sono un bel po' di opuscoli, libri, manifesti, tutto quello che sia Radiazione che altri compagni mettiamo a disposizione da scaricare gratuitamente, e ricordando sempre che sta a chi lo scarica e lo fotocopia e lo mette in diffusione di ricordare di mandare un contributo alle casse di solidarietà anarchiche, che non dovrei spiegarlo, ma sono quelle casse che raccolgono un po' di fondi per da mandare ai compagni in galera. Il sito di Radiazione è bilingue, oltre a quello italiano c'è anche il sito in croato, a cui potete accedere attraverso il banner che trovate in sidebar sul sito in italiano di Radiazione, e sito e radio sono ospitati sul server anarchia.net, messo a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, che salutiamo e ringraziamo sempre per tutto l'aiuto. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, loro sono 77 Team in Color, e il brano è In Color. Poi torniamo qua con una breve notizia di controinformazione, e poi dopo iniziamo l'ultima lettura, l'ultimo viaggio di Nessuno ci salva. Thank you. E questi erano 77TM con il brano In Color. Ora, come dicevo, leggiamo una breve notizia di controinformazione che arriva dal Cile, dove c'è stata una barricata incendiaria in solidarietà con i compagni sciopero della fame, cioè con Juan, Natalia e Guillermo. Leggiamo il testo dei compagni cileni che dice: perché ogni giorno di agitazione, ogni minuto in cui è necessaria la nostra solidarietà con i nostri compagni in prigione, si trasformi in un momento propizio per affinare le affinità nell'azione di strada. Attiviamo la nostra complicità incendiaria per rompere la routine, il normale flusso della vita in città e il monopolio dell'uso della violenza da parte dello Stato e l'ordine dominante. Durante le prime ore di venerdì 1 maggio abbiamo alzato una barricata incendiaria nella zona di Vespucio Sur, in agitazione e solidarietà con lo sciopero della fame dei compagni Juan Flores, Guillermo Durán e Natalie Casanova, che chiedono la fine dell'isolamento a Natalie, il rilascio immediato del compagno Enrique Guzman, la fine dell'uso tendenzioso dei testi sul DNA e porre fine alle minacce alle loro famiglie, amici e compagni. Che il fuoco solidale renda visibile la lotta dei compagni portata avanti in modo dignitoso e combattivo, perché la loro lotta è anche la nostra. Perché chiunque affronterebbe l'autorità potrebbe essere nella stessa situazione o simile di aggressione e di minacce da parte del potere. Che nessun compagno resti indifferente alla decisione di Juan, Guillermo, Enrique e Natalie. Loro oggi rischiano la propria vita lanciando lo stesso messaggio di guerra che si incendia come la benzina della nostra barricata. Contro i colpi del potere la nostra risposta è affinare la lotta per la nostra dignità e la libertà. Contro l'indifferenza e l'immobilità, per il confronto permanente con tutte le forme di potere, contro tutte le forme di potere, solidarietà e azione con lo sciopero della fame di Juan, Guillermo e Natalie. E questo era il testo dei compagni cileni che hanno innalzato sta barricata incendiaria in Cile. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono RTPN, il brano è Boom Slang, e poi dopo si torna qui e si inizia la nuova ed ultima lettura, si inizia l'ultima lettura ma si finirà con tutta la diretta, l'ultima lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Non facciamo nessun riassunto perché prima della diretta è andata in onda l'ultima lettura di lunedì scorso, nonostante le difficoltà si parte subito fino alla fine. RTPN Boomsling. sorge l'ultimo sole. L'ultimo rancio veniva distribuito presto, alle 6, mentre il crepuscolo non calava prima delle 9. I detenuti si facevano avanti con le gavette, sfilando a turno davanti al secondino che versava loro un mestolo di brodaglia. Quando l'ultimo della cella numero 9 ricevette la sua razione, la porta fu chiusa e il pesante catenaccio stridette. «Acqua!» borbottò il Luccio guardando nella gavetta, mentre si avviava verso la propria cuccia. «Beh, è più igienico», commentò Fisco. «Già, se non fosse acqua sporca». Gian Dente d'Oro rovistò col cucchiaio di stagno nella speranza di pescare qualcosa di più consistente nella brodaglia, ma nulla. Sputò con disgusto e si diresse verso il fondo della cella, dove Baran si era appollaiato sul cavalletto della baranda. «Perché fai quella faccia da limone spremuto? Fregatene! Noi altri andremo all'inferno, loro andranno alla malora e tutto sarà sistemato. Che cos'è che vuoi di più?» Baran si voltò a guardarlo con uno sguardo assente. Poi, come se parlasse tra sé e sé, disse, purché sia presto. «Ah, che fretta! Beh, che cos'è, hai paura di non arrivarci?» Alcuni ingollavano in silenzio la sordida broda a cui mancava perfino il sale. Altri, dopo averla assaggiata, la piantavano lì con una smorfia. Soltanto Cassia, il buffo, un giovanottone sulla trentina, riuscì a vuotare la sua gavetta, tutto d'un fiato. Poi, tranquillamente, allungò una mano e prese quella di un altro, ricominciando a ingoiare una cucchiaiata dietro l'altra. «Buono è quel consommé di pollo, eh?» lo canzonò Fisco. «Beh, attento a non mandar giù anche il cucchiaio», gli raccomandò poi Knot. Cassia rispose con una cordiale risata. I suoi compagni di cella lo consideravano un mezzo scemo, ma in fondo non era che un bonario contadino, forse un semplicione, che non attaccava mai briga con nessuno ed era sempre di buon umore. Quando qualcuno gli lanciava qualche frizzo, ne rideva più degli altri. Sembrava non rendersi conto del luogo in cui si trovava e della sorte che lo attendeva. Un giorno, il fatto risaliva un paio di settimane prima, si trovava al mercato basso, dove era giunto al mattino con un carretto ed un cavallo. Stava già accingendosi a tornare al suo paese quando gli si avvicinarono due soldati addetti alla requisizione dei quadrupedi che gli intimarono di consegnare il cavallo. «Spiace, ma la bestia non la do», rispose Cassia senza scomporsi. I due proferirono delle minacce, ma egli tenne duro. «Se volete le palanche, prendetevele, ma niente cavallo». Allora gli strapparono di mano le redini e uno dei soldati lo colpì col calcio del fucile in pieno petto. Cassia strappò a sua volta l'arma dalle mani del soldato e fece fuoco a bruciapelo contro di lui e il suo compagno, freddandoli tutti e due sul colpo. Poi gettò il fucile e, come se niente fosse, diede una voce al cavallo che si avviò al trotto. Ma non aveva fatto chiaramente che 200 metri e fu raggiunto da alcuni soldati a cavallo, guidati da un ufficiale che lo consegnò alla cieca, sotto l'accusa di sabotaggio, di attività controrivoluzionarie e di chissà che altro ancora. Cassia non sapeva neppure lui raccontare come fossero andate veramente le cose. Benché non toccassero mai la gavetta, i detenuti della numero 9 non potevano dire di patire la fame. Jan aveva infatti organizzato da fuori un ottimo servizio di rifornimento. Non si faceva certo più illusioni per Baran, ma voleva almeno che non patisse la fame finché era al mondo. Venne la notte. I detenuti si sdraiarono sulle rispettive brande, ma nessuno aveva voglia di dormire. Ogni tanto qualche battuta rompeva il silenzio. «Accidenti, che cimici enormi!» esclamò più con ammirazione che con rabbia Cassia. «Sai come si fa a ucciderla? Prendila per le zampe posteriori, poi sbattile la testa contro il muro», consigliò Gian Dente d'Oro. «Ma forte, mi raccomando! Sono grosse come mucche, ma mordono come cani», aggiunse il Luccio. «Se riuscirei a cavartela, dovresti portartene una a casa e ingrassarla per un anno, chissà che non ti dia perfino il latte». Subito dopo mezzanotte si udì il noto rombo del corvo nero che entrava nel cortile del carcere. Centinaia di detenuti sussultarono nelle loro brande, alzandosi a sedere con un involontario moto riflesso e tendendo le orecchie in ascolto. Si udirono delle voci in cortile, poi dei passi pesanti che rintronavano su per le scale. A chi toccherà stanotte? Da tutte le celle i detenuti seguivano con il batticuore il rumore di quei passi che il silenzio della notte e il rimbombo delle volte facevano sembrare enormi. I passi giunsero al primo piano, poi presero la seconda rampa delle scale, giunsero al secondo piano e si avviarono lungo il corridoio, mettendo in orgasmo le celle della media. Cella 1, cella 2, cella 3. Giunti all'altezza della 9, la oltrepassarono e si fermarono alla 10. Si udì lo stridere del catenaccio che si apriva, poi una voce rauca incise in un silenzio di tomba alcuni nomi. «Fuori! Svelti!» Scalpiccio di passi, poi improvvisamente un urlo lacerante seguito da un baccano indiavolato e subito dopo da un altro urlo selvaggio. Numerosi colpi di arma da fuoco echeggiarono nel corridoio. Gian Dente d'Oro, che stava con l'orecchio alla porta, bisbigliò ai compagni. «Varlam ha posto resistenza!» Varlam era un dritto dotato di una forza fisica colossale. Aveva sempre detto che alla Komarovka non ci sarebbe andato. I suoi compagni di cella prendevano in burletta questa sua affermazione, sapendo che i soldati venivano sempre in molti armati, oltre che di rivoltelle, di una speciale sferza d'acciaio che aveva il compito di domare gli eventuali ribelli. Un colpo di quest'arma tremenda bastava a spaccare un cranio o a fratturare una gamba. Quelli che si opponevano resistendo venivano trasportati di peso dai compagni di cella sul Corvo Nero e poi sepolti vivi alla Komarovka. Varlam, chiamato per ultimo, non si mosse. Allora l'ufficiale, puntando l'indice contro di lui, si rivolse ai soldati. «Fate uscire quel cane!» Due uomini si fecero avanti, ma Varlam vibrò un tal pugno in faccia al primo che gli spaccò la mandibola. Poi strappò la sferza al secondo e balzò verso l'ufficiale sferrandogli un terribile colpo sulla testa. Stava già per abbattere una terza vittima quando un soldato della scorta gli scaricò la pistola in corpo, continuando a sparargli addosso anche dopo che era stramazzato a terra. 10 minuti dopo il Corvo Nero usciva rombando dal cortile del carcere, portando al loro destino i compagni di Varlam. Und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab, wie das Ende Feuerstelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Mahngeschwür. Die Zukunft, die Folge nach Folge, Resultat. Tür, Tor, Wein, Hose, Bluse, Hemd und Haar. Die Frontbank der Schlucht. Die Zukunft und die Bar, die Runde der Schmerz, die offene Marktwirtschaft, das Messer. Jacques Offenbach, es ist alles wieder offen. Ja, alles wieder offen. Und erwarte einen kleinen Schub. weiß nicht, ob ich heulen sollte. Was ist offen? Die Wunde und das Herz. Das Gesicht, die Kirche, die Gesellschaft und der Staat. Das Mikrofon, der Himmel, die Partnerschaft, das Wort. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen. Der offene Vollzug. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles es ist ja alles wieder offen. Der offene der alles. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles. Es ist alles wieder offen. Lass uns offen. Der alles. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Wieder alles. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Wieder alles. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Wieder alles. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Wieder alles. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Wieder alles. Questi erano Stuzzende Neubaden con il brano Alles wieder offen. Lo dice sempre lui, pronuncia tedesca. Allora, ora dopo la prima lettura di Nessuno ci salva, si ritorna per quanto riguarda la controinformazione con un testo, uno dei due testi scritti da me in questi ultimi giorni. Il primo è proprio sul 1 maggio e 25 aprile, dal titolo Non c'è un cazzo da festeggiare. Allora, come da calendario cristiano, anche quest'anno è arrivata la settimana di feste per molti anarchici. I fedeli nelle loro settimane di Natale e Pasqua ricordano il percorso che porta dalla nascita alla morte con tanto di resurrezione del loro mito astratto. Gli anarchici in questa settimana ricordano le gesta dei partigiani, la resistenza, la liberazione, fino ad arrivare ai morti del 1 maggio 1886 a Chicago. Due ricorrenze annuali che molti anarchici non dimenticano mai di festeggiare. Ci si può dimenticare dei compagni anarchici seppelliti in galera da una vita, ma il 25 aprile e il 1 maggio non si dimenticheranno mai. Questo no. Sui calendari anarchici queste date sono colorate di rosso e nero, invece del solito colore rosso del calendario cristiano, in qualcosa ci si deve pur distinguere. Sono giorni particolari questi in cui la parodia anarchica, meglio conosciuta come Federazione Anarchica Italiana, organizza cortei o vi ci partecipa semplicemente e allestisce banchetti di libri e cibo. Sono giorni in cui, dopo un anno trascorso tra il fancazzismo bibliotecario e qualche lettura ricordo in gruppo su qualche anarchico vissuto un secolo fa, finalmente questi fedeli di Sant'Anarchia possono farsi riconoscere dal popolo come anarchici. Si sfoggia il vestitino della domenica, ci si lega un foulard rosso e nero al collo e si prende dall'armadio la bandierina dagli stessi colori. Il giorno prima si fa ripetizione dei vecchi canti anarchici, che a nessuno avvenga l'idea di farne nuovi perché già questi ci ammorbano da una vita, e poi giù per strada a ricordare i partigiani o il 1 maggio. Questa realtà non appartiene però solamente alla comica federata, ed è proprio a quegli anarchici non federati, quindi anarchici, a cui vorrei fare la seguente domanda: ma cosa avete da festeggiare? Cosa significa festeggiare il 25 aprile o la resistenza e la liberazione? Ma poi la liberazione da cosa? Da chi? Saranno cambiati i colori nel tempo e la dittatura nel frattempo, per mostrarsi più affascinante verso i sottomessi, ha cambiato il suo nome in democrazia. Gli eserciti in strada ce li abbiamo ancora, l'esercito vero e proprio come a Napoli, dove i militari presidiano alcune piazze, o quello camuffato con le auto bianche e blu della polizia o dei vigili urbani, e ancora quelle nere dei carabinieri, che poi sono un ramo dell'esercito. Abbiamo ancora un popolo tenuto per le palle dai politici e governanti di turno, che invece di alzare la testa pensa di inclinarla sulla tastiera di un PC o dello smartphone, dove sfoggia tutto il suo pessimo lato forcaiolo e giustizialista. All'epoca ti davano la tessera per comprare il pane, oggi ti regalano la fibra ottica e qualche mega per comprare i loro voti. Che non viviamo in una società liberata non c'è bisogno che ce lo dica un filosofo, quindi si festeggia la liberazione da cosa? E quel 1 maggio a cui tanti anarchici tengono a precisare che è nato anarchico. qui la domanda è globale, non limitata all'Italia. Sì, perché mentre ora butto giù queste due righe, qualcuno sta buttando della vernice su qualche banca in ogni parte del mondo dove esistono gli anarchici. A Milano è capitato anche di più, fortunatamente. Qualcuno potrebbe dire, allora il fancazzista sei tu che scrivi mentre altri agiscono? Risposta, potrebbe anche essere, e non ho alcun problema di esercitare il mio fancazzismo, il mio tanto amato ozio, nelle date segnate di colore diverso. Cosa hanno di speciale quegli anarchici impiccati a Chicago per essere ricordati con una data segnata in rosso e nero in eterno? Cosa c'è da commemorare annualmente morti anarchici molto in voga nell'era internet? Il ricordo di ognuno di loro nella memoria di ognuno è fondamentale per far crescere l'odio contro l'esistente. La commemorazione è un'offesa verso chi è morto per la libertà, specialmente mentre agiva. Qui si ritornerebbe sul discorso del culto della carogna, quindi dovrei riscrivere di nuovo cose già scritte in passato, ma le evito sia a me che a chi legge. Non voglio scrivere quello che penso perché dovrebbe essere scontato e quindi mi limito solo a fare domande che potrebbero essere raccolte semplicemente in una, quella che ponevo all'inizio di questo scritto. Ma cosa avete da festeggiare? Secondo me non c'è un cazzo da festeggiare. Radiazione, 1 maggio 2015. E questo era un testo in cui ho voluto esprimere i miei pensieri su queste due date che ogni anno ricorrono sempre con molta puntualità tra molti anarchici, proprio mentre ci sono molti compagni in galera e ci si dimentica di loro. Ci sono ancora i compagni in galera per l'operazione Marini, per il sequestro Silocchi, Vai. Dobbiamo segnare anche queste date, non c'è bisogno, i nomi li sapete, quindi. Allora, questo era per quanto riguarda le mie riflessioni sul 1 maggio e 25 aprile, non c'ho altro da dire, quello che volevo dire l'ho detto in queste poche righe del testo. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Diamond Version, il brano è Live Young, e poi dopo si torna qui con la seconda lettura per oggi di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Zero. Years. 60 years. Il celebre giurista Alessandro Starkov, fratello di Oleg Baran e presidente del Supremo Collegio della Ceca, non era mai stato così sovraccarico di lavoro. Era abituato a prendere sul serio tutto ciò che concerneva il suo ufficio e perciò, anche ora che sulla sua scrivania si accumulavano a dozzine le pratiche, egli continuava a esaminarle scrupolosamente una per una. Il Collegio dei Tre, di cui egli faceva parte, era stato creato da Dzierzinski allo scopo di alleggerire il lavoro dei tribunali rivoluzionari e di rendere più sollecito il disbrigo delle pratiche più importanti e complesse. Esso aveva la facoltà di decidere la sorte dei prigionieri senza neppure interrogarli, poteva condannarli a morte o consegnarli al tribunale del popolo. Praticamente, chiunque fosse capitato tra le grinfie dei tre si poteva considerare perduto. Quel giorno, Alessandro Starkov si trovò tra le mani un incartamento particolare, interessante, molto interessante, era quello del cittadino. Egli era stato perquisito per strada da due agenti che gli avevano trovato addosso un completo di grimaldelli, oltre ad uno scartafaccio sul cui contenuto egli era stato molto evasivo. L'attenzione di Starkov fu attirata dal titolo «Nella nebbia». Il romanzo non era finito, ma ce n'era più che a sufficienza per dimostrare che l'autore conosceva a fondo il mondo dei ladri di professione. I personaggi erano troppo vivi, troppo reali per essere semplicemente creati dalla fantasia. L'autore, sia pure sotto altro nome, doveva averne conosciuti parecchi e di persona. Starkov sfogliò il manoscritto leggendo qualche brano qua e là, poi si soffermò su un brano più lungo e infine si portò il manoscritto a casa dove lo rilesse per intero fino a tarda notte, dalla prima all'ultima pagina. Era chiaro che questo racconto non era che un frammento di un'opera che l'autore si proponeva di scrivere. Durante la lettura Starkov sottolineò in matita rossa molti passi, soprattutto quelli che lo lasciavano perplesso, suscitando nel suo animo sentimenti contrastanti. Il mattino seguente Starkov mandò a chiamare il cittadino, cosa che accadeva assai di rado e solo quando gli interessava vedere di persona gli uomini la cui sorte stava nelle sue mani. Il cittadino entrò sotto scorta di due soldati e di un sottufficiale. Starkov si vide davanti un uomo sulla cinquantina, dai capelli grigi arruffati e la barba di parecchi giorni. Teneva la giacca sbottonata e una camicia che non doveva cambiare da chissà quante settimane. «Toglietegli le manette!» ordinò Starkov. «Mi permetto di avvertirvi, compagno presidente, che è un individuo pericoloso», obiettò il sottufficiale prima di eseguire l'ordine. «Fate quello che vi ho detto!» Il sottufficiale ubbidì, ma nella fretta di togliere l'ordigno scalfì la mano del cittadino. «E ora uscite e attendete nel corridoio. Anche la scorta, eh sì!» Il sergente e i due soldati uscirono. Il prigioniero, in piedi in mezzo alla stanza, si grattava tranquillamente i polsi arrossati dalle manette. «Io sono il presidente del Collegio dei Tre». «Piacere», rispose il cittadino con calma, fissando il volto di Starkov con un'espressione leggermente ironica. «Ho qui davanti la vostra pratica e questo romanzo. Ne siete voi l'autore?» «Eh sì. Ha suscitato in me un certo interesse, perciò volevo sentirvi personalmente». Il cittadino non disse nulla. «Sedetevi». «Grazie, preferisco di no, preferisco stare in piedi. Sarebbe un peccato seminare i pidocchi su questa bella poltrona. Del resto io sto tutto il giorno sdraiato». Il cittadino si fregò un occhio lasciando con la mano ferita una macchia di sangue sulla guancia. Starkov si accorse che l'interessante intervista che si era ripromesso di avere con l'autore del romanzo Nella nebbia minacciava di arenarsi nelle secche della diffidenza reciproca. ebbe la tentazione di rimandare subito quell'uomo senza interrogarlo in galera, si sentiva urtato dal suo aspetto macilento, dalla sua sporcizia, dal suo accenno ai pidocchi e da quel sangue che gli macchiava il volto. Tuttavia, prese un foglio di carta e per interrompere il silenzio chiese: «Che studi avete fatto?» «L'università di Agrare e qualche anno di pratica all'estero.» Starkov annotò qualcosa su un foglio che aveva davanti, poi depose la penna. «Oh, mi meraviglio!» disse con le sopracciglia aggrottate in tono molto patetico, «che un uomo istruito e intelligente come voi sia scivolato tanto in basso.» Il cittadino sorrise. «Io non capisco perché vi meravigliate tanto. Si tratta semplicemente di uno spostamento sulla scala sociale. Moralmente un altro paio di maniche. Oggigiorno capita così di frequente. Chi su, chi giù, chi giù, chi su. Francamente non credo di essere sceso tanto in basso. C'è molta gente, signor Presidente, che è scesa molto più in basso di me, benché sia convinta di trovarsi parecchio più in su. Ma non posso pensare che un personaggio come voi provi gusto a discutere con un malvivente della mia risma.» Starkov riprese la penna e si chinò sull'incartamento, mentre il cittadino continuava a fissarlo, colpito dalla sua straordinaria rassomiglianza col mongolo, altrimenti conosciuto come Baran. It's not and the wind blows, it moves through the trees, sinister and haunting on its way as it creeps. I lie in this dark place, searching myself for the strength I had before it all came down. And man, if you were smarter, you would have gone farther. But now, you can't be saved. The sinner will be chosen, his bones will be broken on this judgment day. I spit on your grave. I'm lost in this land. questi erano Gold Town con il brano I Spit on Your Grave. Ora si ritorna alla controinformazione con due brevi notizie. Una arriva da Genova, dove un compagno anarchico è stato perquisito e accusato. Allora, la mattina del 28 aprile verso le ore 6 a Genova, i carabinieri del ROS hanno effettuato una perquisizione a casa di un compagno anarchico genovese indagato, come scritto da verbale, per pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo nonché pubblica apologia di un delitto di terrorismo, segnatamente istigazione a compiere azioni dirette, ossia atti violenti con finalità di terrorismo, nonché apologia del delitto di lesioni aggravate dalla finalità di terrorismo consumato in danno di Roberto Adinolfi in data 7 maggio 2012 e rivendicata in data 11 maggio 2012 dal nucleo Olga Fai FRI in Genova il 15 maggio mediante redazione di un documento pubblicato sul sito web Informazione. Lo scritto in questione era stato pubblicato sui siti e firmato dal compagno con il proprio nome dopo le dissociazioni che alcuni genovesi vollero prendere nei confronti di chi attaccò Adinolfi. Nella perquisizione sono stati sequestrati al compagno due computer, un hard disk, due chiavette USB e materiale cartaceo. Non un passo indietro, solidarietà a Nicola e Alfredo. Poi c'è una nota di radiazione che dice: lo scritto firmato dal compagno con il suo nome era una risposta a quello purtroppo molto noto e schifoso da titolo I puntini sulle i, redatto da un coglione non genovese e qualche sua pecorella che hanno sentito l'esigenza di parlare a nome degli anarchici genovesi. Ora quei quattro coglioni, chiamarli dissociati vorrebbe dire che almeno prima di una possibile dissociazione avevano un cervello, saranno ben lieti di sapere che c'è chi li difende dalla critica, la procura di Genova. Complimenti anarchici da quattro soldi, da oggi sapete che in caso di un'altra azione in cui metterete bocca con i vostri puntini avete la responsabilità sugli atti giudiziari a carico dei compagni che vi risponderanno. Poi c'è anche il testo che aveva scritto il compagno, ma questo poi lo potete leggere dal sito di Radiazione. Invece, rimanendo sul tema per cui fu scritto quel testo e poi ci fu la risposta del compagno perquisito e accusato, c'è stata la Cassazione nei confronti di Alfredo e Nicola. La Cassazione ha confermato le condanne contro i due compagni anarchici. Ricordo che i due compagni hanno rivendicato in tribunale, attraverso due scritti, l'attacco all'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi il 7 maggio 2012, rivendicato poi l'11 maggio 2012 attraverso un testo firmato Nuclea Olga Fai FRI. Le condanne hanno subito una lieve variazione per la qualificazione dei reati minori, quindi le condanne definitive sono: per Alfredo Cospito condanna a 9 anni e 5 mesi e 10 giorni, in appello erano 10 anni e 8 mesi, non è cambiato un cazzo. Nicola Gai invece ha 8 anni, 8 mesi e 20 giorni, in appello invece erano 9 anni e 4 mesi, anche in questo caso non è cambiato un cazzo. Solidarietà e complicità con Alfredo e Nicola. E queste erano le due notizie riguardando una la perquisizione a carico dei compagni e l'altra per gli aggiornamenti sui due compagni in galera dal 14 settembre 2019, non mi ricordo bene la data, del 2012, per riferimento di Adinolfi. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Ministry, il brano è Dying Crash e poi dopo si ritorna qui con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. We'll be right back. Intanto la stilografica del presidente tracciava rapide annotazioni in una scrittura minutissima, privo di ogni senso morale, cinico, idee molto pericolose. «Vi hanno trovato addosso un completo di grimardelli», disse deponendo la penna. «Perché portavate in giro questi arnesi?» «Perché mi interessavano, naturalmente per adoperarli, e affatto, nella mia pigra esistenza di parassita non ho mai avuto un gesto audace. E neppure in questi ultimi tempi? Mai! Ho sempre bazzicato uomini spregiudicati e coraggiosi, ma non ho mai compiuto uno di quegli attacchi che la ridicola morale insegnatami da ragazzo definiva disonesti. Tuttavia, ammiro quelli che voi chiamate delinquenti e deploro come vergognosa e ingiusta la caccia spietata che dà loro la società. Volete dire che la delinquenza deve andare impunita?» Starkov strinse le labbra e socchiuse gli occhi con un'espressione caratteristica di Oleg. «E voi credete forse che la delinquenza si possa combattere con un'altra forma di delinquenza?» rispose il cittadino, piccato. Poi, dopo una breve pausa, aggiunse: «No, no, non saranno affatto le mani del carnefice a estirparla. L'odio. Suscita l'odio. Dalla repressione nasce una ribellione anche più feroce e spietata. Nell'Internazionale, che voi comunisti avete scelto come vostro inno, ci sono delle bellissime parole. Nessuno ci darà salvezza, né Dio, né lo zar, né l'eroe. Conquisteremo la nostra salvezza con le proprie mani, nostre proprie mani. Ed è giusto che sia così, ma bisogna che le mani non grondino sangue, altrimenti sarà una falsa libertà dal sapore acre ed amaro. Non c'è che una cosa che possa salvare l'umanità.» Il cittadino guardava al di sopra della testa di Starkov, come se non si rivolgesse a lui. «E questa cosa è la comprensione tra gli uomini.» Starkov incominciava a sentirsi a disagio. «Vuol fare l'intelligente», pensava. «Ma questi, in fondo, sono sofismi di un intelligente bacato e degenere.» «E secondo voi, dunque, quali sarebbero i mezzi che è illecito adottare nella lotta contro la delinquenza?» L'ho già detto, la comprensione, aggiungerei l'amore, se questa parola avesse ancora un significato. Già, ma se ci sono delle immondizie in un cortile, bisogna pur toglierle di mezzo perché non ammorbino l'aria. E che dire dei parassiti che ora si ingrassano su quelle immondizie?» Il cittadino calcò la voce sulla parola «ora», ma subito si pentì di abusare della tolleranza di quell'uomo che in fondo si dimostrava così cortese con lui. «Sapete qual è la sorte che vi attende?» chiese gravemente Starkov. «Certo, la Komarovka», rispose calmissimo il cittadino. «Come mai tanta certezza se vi considerate innocente? Lo sanno anche i bambini che quando la pratica di un detenuto arriva alla vostra scrivania, la questione della sua innocenza o della sua colpevolezza non ha più alcuna importanza.» Starkov lo fissava con uno sguardo freddo e impenetrabile nel quale era impossibile scorgere anche l'ombra di un moto interiore. Dopo un attimo di silenzio allora chiese: «Avete qualche ultimo desiderio da formulare?» Nella testa del cittadino turbinavano mille pensieri. Ora fu tentato di buttarli fuori tutti in una volta come il suo testamento spirituale, come un supremo appello alla società che in quel momento era rappresentata da quell'uomo il cui volto assomigliava in modo così stupefacente a quello del più ammirato dei suoi amici. Ma quali parole doveva scegliere per concentrarvi tutto se stesso, senza essere giudicato un tristo sbuffone, un fanatico illuso, un sentimentale impenitente? Sì, certo che ne avrei molti, troppi anzi, ma voi non siete in grado di esaudirli, signor presidente», disse infine. «Ne siete sicuri? Sentiamo.» No, è assurdo.» Poco dopo il cittadino veniva riaccompagnato nella sua cella. «Sono un fetente intellettuale, un orgoglioso che ha voluto soprattutto far bella figura. Se gli avessi parlato diversamente, forse il mio destino non sarebbe così inesorabilmente segnato.» Si sforzò di non pensare più a quella conversazione, a come era andata, a come sarebbe potuta andare, ma, senza volerlo, per tutto quel giorno si vide davanti il volto del presidente che immediatamente diventava il volto di Oleg Baran. Thank you. Appena la porta dello studio si chiuse dietro le spalle del cittadino, Starkov prese la matita rossa e tracciò sulla testata degli atti che aveva davanti una grande croce. Poi, un po' a casaccio, a dir la verità, scrisse una data, la prima che gli venne in mente. 16 luglio. Fra 4 giorni il cittadino avrebbe finito il suo romanzo e sarebbe sparito anche lui nella nebbia. Quel giorno, Starkov, che di solito era puntualissimo, arrivò tardi in ufficio. La sera prima aveva dovuto prendere parte a un ricevimento offerto da Krivonshain in onore della commissione di controllo giunta da Mosca. Vi andò di malavoglia, sia perché il comandante gli era francamente antipatico, sia perché aveva litigato con la moglie che si era rifiutata di accompagnarlo, mentre Krivonshain aveva espresso il desiderio di sentirla cantare quella sera in onore dei suoi ospiti. Il banchetto era stato quanto mai noioso, con la solita interminabile tiritera di brindisi rivoluzionari. Starkov era tornato a casa disgustato e, come se ciò non bastasse, la moglie lo aveva atteso fino a dopo mezzanotte per fargli un'altra scenata, insistendo perché si facesse trasferire a Mosca. Non voleva più saperne di quella lurida Minsk dove, per non parlare dei disagi, non aveva conoscenze e si annoiava a morte dalla mattina alla sera. Ma il mattino seguente Starkov si alzò con un tremendo mal di capo e, poiché la moglie dormiva e nessuno si era curato di preparargli la colazione, si recò in ufficio a stomaco vuoto. Come al solito, trovò una pila di incartamenti da esaminare sulla sua scrivania. E fumando una sigaretta dietro l'altra, pensava alla moglie che, nonostante tutto, amava teneramente, o almeno con tutta la tenerezza di cui era capace, data la freddezza del suo temperamento. Non aveva chiuso gli occhi tutta la notte, pensando alle complicazioni che sarebbero derivate e ai grattacapi che avrebbe avuto, quasi che non bastassero quelli dell'ufficio, se la moglie avesse attuato quel suo proposito di andarsene da Minsk. Quasi meccanicamente tracciava con la matita rossa delle croci sulle pratiche che aveva davanti e che a man mano passava dall'altra parte della scrivania. D'improvviso però ebbe un sussulto. Attaccata ad una di esse lo guardava la propria fotografia. Aprì quell'incartamento in fretta, e su quell'incartamento era scritto a stampatello: Alessandro Baran, professione calzolaio. Ah sì, ora ricordava, Baran. Micin gli aveva chiesto se appena fosse possibile di usare clemenza con quell'uomo, ma anche Micin, come Krivonshain, non godeva delle simpatie di Starkov, che vedeva in lui un fanatico, un ottuso a rivista. Esaminò attentamente la pratica, più volte recidivo, fuggito dal carcere, scassinatore, in possesso di armi. La sua mano restò per un attimo sospesa sul foglio prima di tracciarvi il terribile segno che archiviava la pratica per l'eternità. Gli sembrava di cancellare con quel segno se stesso dalla faccia della terra. Aggrottò le sopracciglia in preda ad un inesplicabile sgomento. Alessandro. Strano nome per un calzolaio, nome di sovrani, di tiranni. Rarissimo nella plebe, il mio stesso nome. E questa somiglianza. Il criminale lo fissava negli occhi con le palpebre socchiuse e le labbra strette, ed egli si accorse di guardarlo nello stesso modo, con lo stesso muto rancore. Abbatté la mano sul foglio come un boia, abbatté la scure e scarabocchiò una sbilenca croce color sangue, sotto la quale annotò nervosamente: oggi. Premette il campanello e consegnò la pratica al funzionario. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Temperature was 19 degrees below normal. He was clinical. we acted dead. All of our tests said that he was dead. He had no responses from a neurologic standpoint. Questi erano Dive con il brano Final Report, un remix di Monolith. Ora si ritorna alla controinformazione con ancora un altro testo, l'ultimo, quello scritto stamattina da me, da titolo Exposizioni. Pur non condividendo da più da anni forme di lotta di strada, quella quali le manifestazioni presidi, ho comunque sempre riportato su questo sito i momenti più interessanti di queste. È la mia scelta quella di non partecipare più a queste lotte per svariati motivi: la scadenza dettata dallo Stato e non dai manifestanti, il rischio molto elevato se si considera che alla fine non resta nulla se non il tutto isolato a quei pochi istanti, la nausea dopo i tanti e vari vertici del primo decennio del 2000, il pericolo di essere affiancati durante lo scontro e la devastazione da gente incappucciata che non conosci, che vanno dagli ultras al ragazzino internetaro che sceglie Black Bloc in alternativa all'ISIS, allo sbirro infiltrato, al modaiolo vestito di nero che trovi solo alle manifestazioni, ma soprattutto anche il solo passeggiare insieme con chi non avrei nulla da spartire. Questi sono solo alcuni dei motivi che al momento mi vengono in mente e che mi portano a non condividere la forma di lotta in strada, ma che nonostante tutto non critico, a ciascuno il suo. Ovvio che se scrivo queste due righe ora è che perché sono passati solo 3 giorni dalla manifestazione di Milano contro Expo e per il 1° maggio, in cui le banche, alcune agenzie, le auto di lusso, i cittadini asserviti, i miserabili inviati dal TG, da notare il miserabilissimo Paolo Poggio di Rai News, che con un fare davvero e proprio sbirro è iniziato a fare indagini diretta televisiva elemosinando video ripresi dai telefonini per aiutare ad arrestare i violenti, e dalla stampa, ai tribunali televisivi, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e i pacifisti, tra cui molti pseudopunk che amano definirsi antispecisti. Hanno tutti riavuto gli incubi dei controvertici di Napoli e Genova del 2001. Ah, dimenticavo un certo Roberto Saviano, un uomo di merda che mette bocca su quante volte Tizio può andare al cesso insinuando cosa potrebbe fare quella persona nella tua toilette. Preparare un attentato, un omicidio, chiedere la tangente alla signora che chiede l'elemosina davanti alla porta della stessa toilette, o eccetera, eccetera. E che purtroppo sentiremo parlare fino a quando lo Stato non lo lascerà senza scorta e lo butterà in pasta alla sua manovalanza chiamata Camorra. In tutto questo, ciò che risalta agli occhi oggi è che lo Stato è riuscito negli ultimi 14 anni a solidificare la sua posizione attraverso un accurato programma moralista che ha avuto come mezzi TV, giornali e social network. Il tutto contornato dalle lacrime del povero, tra virgolette, ricco a cui hanno dato fuoco l'auto o il negozio. Si nota dal cittadino servo che, oltre a pagare la tassa per la nettezza urbana e per i lavori pubblici, già dopo un'ora dagli scontri si è armato indignato di scopa, paletta, secchio e pennello per tirare a lucido di nuovo la sua prigione città. Mentre nel 2001 a Napoli la gente era scesa dalle proprie case ad aiutare i manifestanti bloccando strade con le proprie auto e ospitando nelle proprie case chi scappava da lacrimogeni e dagli sbirri. Questa sicuramente è una differenza culturale tra nord e sud, ma è altrettanto l'esempio di come abbia ben funzionato il programma di recupero negli ultimi 15 anni. Per completare il lavoro e farsi passare da predatore a preda in difesa è servita anche la dolce, tra virgolette, risposta degli sbirri sotto tiro della propaganda elettorale 2015 per ripulirsi il viso dopo che per settimane sono state trasmesse di nuovo le immagini della scuola Diaz. È un tribunale continuo quello che va in scena quotidianamente e non solo dopo la manifestazione di Milano. La natura è stata fin troppo benevola a regalare una forma di stivale al territorio italiano, sarebbe stata più appropriata una toga. O forse quello stivale è una condanna della natura, come a dire, italiani sarete sempre persone prese a calci nel culo. Ma passiamo ai manifestanti. Ascoltare alcune interviste post manifestazioni, dallo scooter al ragazzino infoiato, mi ha fatto rodere il fegato più della voce narrante mediatica. Vedere la foto di un manifestante che sfascia qualcosa con un Rolex al polso mi è dispiaciuto non esserci per rubarglielo e risolvere un po' dei miei problemi economici. Quando ho visto le immagini di quella strada con tutti i vestiti, spranghe, casche e tant'altro abbandonato alla mercé degli sbirri, ho pensato allo sbirro che usciva dalla Diaz con la Molotov. Ho pensato, da 10 a 100, nell'era delle prove sul DNA, quando si può essere imbecilli ad abbandonare per strada certe cose? Non a caso, ieri si parlava già di un gruppo di greci, termine che fa molto effetto se si deve criminalizzare gli anarchici, che sono stati portati in questura per fare gli esami del DNA. Ma soprattutto ci sono stati gli arresti dopo la manifestazione. Il silenzio è dovuto al fatto che alla fine di quella giornata di distruzione non resta nulla se non il tutto isolato a quei pochi istanti. Resteranno solo altre immagini che ora circoleranno su adesivi, giornale web, per guardarsi allo specchio e dirsi quando siamo belli e quando siamo fighi, sperando che non resti l'ennesima exposizione. Non concludo il testo, ma lascio pensare. Radiazione. E queste erano alcune riflessioni riguardante la manifestazione che c'è stata il 1° maggio a Milano contro Expo e per il 1° maggio, dopo 3 giorni in cui è meglio non leggere i giornali, è meglio non accendere la TV a guardare TG e roba varia, perché comunque stanno molto martellando su sta cosa. E ho notato anche una piccola provocazione in tutto ciò. Cioè, all'indomani del G8 si parlava di violenti, di persone che avevano distrutto questo, quell'altro, di anarchici, del pericolo. Invece ora la stampa, e questo è anche dettato dai politici, perché sappiamo che i giornali sono finanziati, la maggior parte di, quasi tutti i giornali sono finanziati dai vari partiti, ha preso un'altra strada, ha adottato un'altra tattica per contrastare certe cose, tipo la presa per il culo. Cioè, praticamente si sta facendo passare quei compagni che sono scesi in strada a Milano per delinquenti, facendo notare che c'era una manifestante con il Rolex al polso, facendo un'intervista a un povero coglione che si è trovato lì, che io dicevo ha deciso di scegliere il Black Bloc in alternativa all'ISIS. Questo è un problema molto frequente nell'ultimo periodo, a tante altre cose, ridicolizzando un po' il tutto quello che era successo, e nel frattempo anche criminalizzando molto pesantemente. Il fatto di ridicolizzare un gruppo di persone o un bel blocco che ha devastato Milano, secondo me sta nella strategia di aspettarsi qualche risposta. Che la risposta non ci sia, perché loro vogliono che attraverso le nuove leggi sull'antiterrorismo in Italia, vogliono che praticamente chi scriverà in merito a quello che è successo a Milano, appoggiando quello che è successo a Milano, poi sarà vittima di quello che è stato vittima anche il compagno a Genova, dopo il testo di critica, i puntini sulle i. Soprattutto anche fa sorgere il sospetto, la coincidenza alquanto sospetta della ritrosia delle guardie, delle forze dell'ordine a intervenire, quando invece sappiamo come in altri frangenti sono intervenuti duramente sui non violenti, caricando a più non posso, in modo tale da poi facilitare la reazione civilista, la reazione della città, il corteo della Milano per bene, della Milano che non si lascia piegare. Addirittura riportiamo le dichiarazioni del sindaco milanese, avvocato Pisapia, Rosso, avvocato di movimento a Milano, le persone che hanno fatto questi atti non sono di Milano, okay, ho capito. Magari anche sì, magari anche no, non ci interessa da dove sono venute queste persone, ci interessa però che sicuramente la ridicolizzazione che sulla stampa è passata fa parte di una strategia, secondo noi, ben precisa, e soprattutto sul fatto che si poi autorizzi tutto un movimento variegato di No Expo a dire ok, se continuiamo sulla linea della non violenza e sulla discussione democratica potete continuare per tutto. Vabbè, sarebbe l'ennesima pubblicità ad Expo, e in tutto ciò chiariamo il fatto che la reazione molto dolce che dicevo pure io nel testo, che ora diceva Marcello, non è che noi ci aspettavamo auspicavamo una reazione violenta, molto più violenta da parte degli sbirri. Però dietro tutta questa cosa c'è da capire che dietro tutta questa cosa ci sono anche le accuse che ha subito la polizia per quanto riguarda la Diaz, sul fatto che qualche parlamentare ha proposto di mettere il numerino riconoscitivo sui caschi o sulla divisa degli sbirri. Questa potrebbe essere la reazione degli sbirri, potrebbe essere dovuto anche a questo. Non lo diamo per scontato, non riusciamo ad entrare nella testa degli sbirri e non ci vogliamo entrare assolutamente. Così come non entriamo nella testa degli sbirri, ma leggiamo gli articoli. È stata pubblicata una sequenza fotografica dai repubblichini della Repubblica che per l'appunto poi non hanno mancato di definire squadristi quei compagni, diciamo, più o meno organizzati e capaci di fare delle cose, sul povero poliziotto che è stato picchiato. Allora, se leggiamo bene da fonti, diciamo, della stampa borghese, lui stava facendo il suo lavoro, nel senso che si era andato a prendere, diciamo, quella che poi è stata una compagna arrestata, Per cui qualcuno lì, vedendo la scena, è intervenuto e poi purtroppo questa compagna è stata comunque arrestata, perché subitaneamente il tipo si è preso 2-3 bastonate, però alla fine il suo lavoro il 1° maggio l'ha portato a terra. Ah sì, perché poi si è lamentato pure di lavorare il 1° maggio. Bella merda, vabbè, comunque questo tutto questo sta nell'ennesima provocazione. Allora, dopo queste riflessioni per quanto riguarda la manifestazione del 1° maggio, ora ci ascoltiamo un brano. Loro sono Information Society, il brano è Sick, dopodiché leggeremo un ennesimo paragrafo di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. I'm just gonna quello stesso giorno arrivarono alla cella 9 tre nuovi ospiti: Rana, Davidka e il cittadino. Tutti vecchi amici della mala di Minsk. L'unico estraneo rimaneva Cassia, il buffo. Rana era stato preso una settimana prima in strada. Aveva tentato di difendersi, ma dopo pochi colpi gli si era inceppata l'arma e aveva dovuto mollare, non senza aver forato la pelle a due poliziotti. Egli stesso era stato ferito alla gamba e alla spalla. Davidka, al quale Jana doveva la vita, aveva tentato pure lui di fuggire dal commissariato della prima zona, ma gli era andata male. Riacciuffato, era stato portato al cellulare e assegnato alla cella numero 9. L'ebreo non aveva più dubbi ormai circa la sua sorte. Tuttavia teneva un contegno coraggioso e anzi si sforzava assieme a Gian Dentedoro di distrarre gli altri coi suoi comici colloqui con Cassi, a cui faceva dire e fare un mucchio di buffonate. A un certo punto piantò in asso il contadino e, sedendosi sul davanzale della finestra, si mise a cantare. Se immaginassi dove andrò a crepare, d'oro in una bara mi farei ben fare, e il coperchio vorrei che argento fosse, perché tutta la gente si stupisse, e che dritto non sono stato, si sapesse. Ehi, dighi dighi di, ehi, dighi dighi da. Te lo dirò io dove e quando creperai, gli buttò Fisco. Dove e quando? Stanotte, alla Komarovka. Beh, e allora non me ne importa un corno, un bel giorno creperanno anche loro, tutti quanti si deve morire prima o poi. Cassia, vieni qui, dai, balliamo la danza macabra. E, afferrato il contadino per la vita, incominciò a farlo girare mentre fischiettava una vecchia aria che aveva sentita suonare tante volte ai giardini pubblici da un organetto ambulante. Piantatela, gridò loro Gian Dentedoro, ma quei due continuavano a turbinare sempre più velocemente nello stretto spazio compreso tra le bande. Baran stava fasciando la spalla di Rana, il cittadino, il Luccio e Knot giocavano a carte sulla brana di quest'ultimo, litigando ogni tanto tra loro. Non ignoravano affatto di avere le ore contate, ma cercavano di non pensarci, concentrando tutta la loro attenzione su quella partita briscola. Giunse la sera, l'ultima. Tutti lo sapevano. Tuttavia, come per una tacita intesa, nessuno lo disse, nessuno si lasciò sfuggire una frase o un'esclamazione. Avevano alluso chissà tante volte a quell'ultima notte e adesso che era venuta davvero, provavano una gran calma e qualcuno perfino un senso di sollievo. Erano decise di andare incontro alla morte con lo stesso coraggio col quale avevano affrontato sempre la loro tribolata vita di dritti. Si buttarono sulle brande senza svestirsi né togliersi le scarpe. Fin da quando si erano ritrovati insieme in quella cella, si erano convinti che per loro non era altro che la sala d'aspetto della morte. Avevano deciso, quando fosse giunto il momento, di non opporre resistenza per non offrire ai loro carnefici il pretesto di inferocire ancor di più su di loro. Il buio aveva ormai invaso la cella. Steso sulla sua cuccia, Baran teneva tra le dita i capelli di Pavka. Non si era mai accorto che ve ne erano mescolati negli altri di un biondo leggermente più scuro i capelli di Costantino Sament, l'amante della sua amante. Amorevolmente si avvolgeva intorno all'anulare come una tenue vera quei fili d'oro, tutto ciò che gli rimaneva della ragazza amata, della quale il suo destino si era servito tante volte per burlarsi di lui, fino a quell'ultima tragica burla. A poco le conversazioni si spensero, ma Cassia fu l'unico ad addormentarsi. Non lo svegliò neppure il rombo del corvo nero che quella notte arrivò alle 2. Agli inquilini della 9 fecero meno impressione i passi che rintronavano su per le scale. Si sapeva già dove erano diretti. Quando la porta della cella si aprì, tutti erano in piedi, pronti ad uscire. Solo Cassia, svegliato di soprassalto agli scossoni di Fisco, sedeva ancora sulla branda sbadigliando. I cechisti erano più numerosi e più armati del solito. Si aspettavano una fiera resistenza dalla cella numero 9, dato il tipo di uomini che vi erano raccolti. La loro calma li lasciò interdetti. In silenzio, in fila indiana, percorsero il corridoio e scesero le due rampe di scale. In cortile furono legate loro le mani dietro la schiena. La scorta, composta di 14 soldati, salì anch'essa sul furgone dopo avervi fatto salire i detenuti. Un ufficiale prese posto nella cabina dell'autista. Pochi secondi dopo, il corvo nero usciva dal cellulare, dirigendosi velocemente verso la Komarovka. Entro il parco, il cui limite giungeva fino al quartiere della Komarovka, appunto, era stato cintato un pezzo di terreno rettangolare con un fitto reticolato di filo spinato, lasciando solo una stretta apertura, vigilata da sentinelle armate di mitragliatore, appena sufficiente per il passaggio del corvo. Tutto questo apparato era stato allestito dopo le prime esecuzioni, durante le quali si erano verificati dei casi audacissimi di fuga, pienamente riusciti tra l'altro. I cadaveri venivano gettati in fosse scavate in precedenza dagli stessi condannati, gli ultimi si trovavano quasi a fior di terra e, qua e là, si vedevano le estremità di qualche arto affiorare dal suolo. Il fetore ammorbante della decomposizione si avvertiva appena, subito appena entrati nel parco. Il corvo nero entrò nel recinto e si fermò. La scorta scese per prima, poi l'ufficiale intimò ai condannati di uscire. Furono slegate loro le mani perché potessero svestirsi quando ne avessero ricevuto l'ordine. Tutto si svolse nel più assoluto silenzio. Il recinto era illuminato da grandi lampade ad acetilene. Gian Dente d'Oro girò attorno lo sguardo. Non c'era nessuna via di scampo. «Tre di voi a scavare la fossa!» gridò un soldato rivolgendosi ai detenuti. Si fece avanti Cassia, il buffo contadino. Gli era sempre piaciuto lavorare la terra. E ora era un pezzo che non prendeva in mano un badile. «Altri due!» Il Luce e Knot uscirono dal gruppo. Il soldato tracciò con la baionetta sul terreno la linea di delimitazione della fossa. «Scavate, svelti!» Poi ordinò agli altri detenuti di togliersi gli abiti. I condannati sapevano che i soldati si sarebbero poi divisi fra di loro i loro indumenti. Baran, prima di consegnare la giacca, tolse dalla tasca la piccola ciocca di capelli biondi. Ora erano tutti in mutande. Chi non era a torso nudo indossava una canottiera o una camicia sporca o piena di pidocchi. Tirava un'aria fredda. Davidka batteva i denti, ma cercava di nasconderlo ai compagni perché non credessero che gli fosse venuta la tremarella all'ultimo momento. Rana, dal canto suo, calmissimo, stava dritto e impettito come se gli avessero ordinato di mettersi sull'attenti. Non aveva addosso che un paio di mutandine da bagno, nere, e la benda che gli fasciava la spalla macchiata di sangue. Il cittadino sorrideva con aria impacciata, come se si vergognasse di apparire in pubblico vestito così sommariamente. Mentre si guardava attorno, gli venne di pensare: «Peccato non poter finire il mio romanzo. Ci sarebbe da aggiungere un capitolo interessante.» Oh, what's happening here? War is happening. Yes. E questi erano Lights of Euphoria con il brano Flight to Target. Ora torniamo alla controinformazione, leggendo degli aggiornamenti sulla situazione giudiziaria dei compagni detenuti in Cile, con cui avevamo iniziato la diretta di oggi, e quindi di Juan, Dalì, Enrique e Guillermo. Allora, il 28 aprile c'è stata l'udienza per i compagni Juan Flores, Natalì Casanova, Enrique Guzman e Guillermo Duran, accusati per collocazione e detonazione di diversi ordigni esplosivi e il tentativo di collocarne altri a Santiago. I compagni hanno iniziato uno sciopero della fame tra il 13 e il 14 aprile. In questa udienza i magistrati e la parte denunciante pubblica e civile hanno modificato alcune imputazioni aggiungendo nuove accuse. Natalì è stata accusata di partecipare al confezionamento dell'ordigno che esplose al primo commissariato di Santiago, dato che i pubblici ministeri e polizia sostengono di aver trovato del DNA della compagna tra i resti dell'esplosione. Secondo loro ci sono anche campioni di Juan ed Enrique tra questi resti. Inoltre è stata accusata senza alcuna prova dell'esplosione al 39esimo commissariato di Bosque, aggiunta alle accuse per aver collocato e fatto esplodere un ordigno nella metro di Los Dominicos e di tentato attentato su prove dubbie trovate nella perquisizione a casa sua. Quindi la compagna continua ad essere detenuta nel carcere di San Miguel. A Juan invece hanno modificato e aggiunto nuovi carichi con l'accusa di partecipazione all'esplosione del subcentro di Escuela Militar, dove sono rimaste ferite 14 persone. Quindi hanno aggiunto 14 accuse. Accuse come lievi e gravi lesioni, tentato omicidio, tutto questo come atto terroristico. Questo permette di utilizzare ai persecutori di utilizzare la legge antiterrorismo per aumentare le condanne e avvalersi di diversi trucchi come testimoni sotto copertura, segreti e senza volto, tutte trappole investigative che pesano sulla prigionia dei compagni. Sono state mantenute le accuse per partecipazione negli attacchi al primo commissariato a Los Dominicos e tentativo di attentato. Enrique invece è stato accusato per il suo presunto coinvolgimento nella collocazione e l'esplosione al primo commissariato, dove i pubblici ministeri e denuncianti hanno utilizzato le loro dubbiose prove video e DNA per mantenere le loro accuse e la custodia del compagno. Anche lui è stato accusato di tentato attentato per il ritrovamento di alcuni oggetti che secondo i persecutori potrebbero servire per analizzare un ordigno, per realizzare un ordigno tipo carbone, zolfo, un estintore, cavi, eccetera, eccetera. Il compagno ha messo fine allo sciopero della fame giovedì scorso perché era logorato fisicamente ed emotivamente. A Guglielmo è stata invece mantenuta l'accusa di tentato attentato e gli arresti domiciliari. In udienza la difesa ha chiesto la possibilità di accedere a dei controlli medici presso un presidio della sua zona di residenza, questo per motivi del suo sciopero della fame, una richiesta che il giudice ha accolto nonostante l'opposizione furiosa dei cani persecutori. All'udienza si è parlato anche del trasferimento di Natalì a modulo 1, dove si trova in isolamento, ma dove le condizioni sono più severe dato il costante controllo dei carcerieri. La difesa inoltre ha manifestato la necessità di eliminare queste misure malate della gendarmeria, mentre i pubblici ministeri, i denuncianti e l'avvocato del carcere hanno sostenuto e difeso tali misure nei confronti della compagna. Il giudice ha deciso di mantenere questa situazione aberrante, ma bisogna dire che giovedì 23 aprile la compagna è stata trasferita alla Torre 1 del carcere di San Miguel, dove resta ancora nelle stesse condizioni di isolamento, ma in questo modulo c'è un controllo ancora molto più intensivo da parte dei carcerieri che liberamente entrano nella sua cella in quanto non ci sono lucchetti e serrature, facendo agguati silenziosi. E questi erano gli aggiornamenti sui compagni detenuti in Cile, accusati di vari attacchi, tra cui gli attacchi alle metropolitane dove ci furono 14 feriti, e attacchi che i compagni hanno sempre negato l'appartenenza, non hanno mai rivendicato. Questo era per quanto riguarda il Cile. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Skinny Puppy con il brano Ictums, e poi dopo si ritorna qui con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. We'll be right back. Le prime luci dell'alba tingevano di un verde pallido i prati e gli alberi secolari del parco. Ad una le lampade si spensero, mettendo in evidenza il terreo squallore dei volti dei condannati. Davidka fece un rumoroso starnuto. «Salute!» disse Gian Dente d'Oro. «Attento che prenderai il raffreddore!» lo ammonì Knott. Gli altri tacevano. I cechisti fumavano tabacco scadente sputacchiando per terra. Due già si contendevano le scarpe di rana. Il Corvo Nero fece un giro nello spiazzo e andò a portarsi davanti all'uscita prima che si fosse arrestato. Un soldato lanciò all'autista un grido come quelli che fanno i carrettieri per fermare il cavallo. Uè! E ciò divertì molto Cassia, che riconobbe in quel grido un verso che gli era abituale. Raddrizzando la schiena scoppiò in una risata rumorosa, ma assai meno franca e cordiale del solito. Richiamava piuttosto quella che si ode fare talvolta dai ragazzi che assistono per la prima volta all'uccisione di un maiale portato al macello. Gli affossatori continuarono per un bel pezzo a lavorare di zappa e di badile. La terra si era accumulata intorno alla fossa che ormai arrivava ai loro fianchi. Il cielo, a levante, si andava tingendo di rosa e il bosco era tutto un festoso pigolio d'uccelli. Tra pochi minuti sarebbe sorto il sole e il regolamento vietava ai condannati di vederlo. Ad un certo punto l'ufficiale gridò «Halt!». Cassia, il Luccio e Knott uscirono dalla fossa asciugandosi il sudore col dorso della mano. «Spogliatevi e andate a raggiungere gli altri!» ordinò un cechista. I soldati che aspettavano in fondo al recinto si alzarono e andarono ad esporsi a semicerchio dietro il gruppo dei condannati, sospingendoli intanto con le canne di fucili verso la fossa. Quando furono a pochi passi da loro, il primo colpo partì, seguito da altri, mirati direttamente alla nuca dei condannati che sentivano il contatto freddo della canna. Il primo a cadere fu il cittadino, poi Rana, colpito alla spalla nello stesso punto in cui era stato ferito il giorno prima, si piegò sulle ginocchia. Baran istintivamente fece per soccorrerlo, ma stramazzò lui pure, fulminato alla tempia, mentre il Luce e Knott si abbattevano sull'orlo della fossa. Ci vollero parecchie pallottole prima che Gian Dente d'Oro, crivellato in più parti del corpo, si afflosciasse a terra. Davidka era ancora illeso, andava avanti coi pugni stretti, le mascelle serrate, in mezzo al grandinare dei proiettili. Forse non era stato ancora preso di mira perché era il più mingherlino ed era consigliabile liquidare al più presto i più robusti. Quindi inciampò contro il corpo del Luccio e per poco non cadde. In quel momento un cechista destinò a lui una pallottola, ma questa, benché sparata a due spanne di distanza, gli fischiò sopra la testa senza neppure sfiorarlo. Imbestialito, il soldato lo spinse davanti con una pedata schifosa, carogna di un giudeo. Davidka si voltò indietro come una furia e gli sputò in faccia. Alzò anche il pugno per colpirlo, ma fu inchiodato sul posto da due pallottole, una delle quali gli entrò in bocca e l'altra gli fracassò la mascella. Per un attimo fissò con due occhi terribili l'uomo che l'aveva insultato e poi crollò nella fossa. Cassia, il buffo, era pure giunto alla fossa quasi illeso. Un proiettile l'aveva certo colpito al braccio di striscio ed egli si premeva con la mano la ferita, guardando coi suoi occhi infantili l'orrendo massacro. Il sole apparì all'orizzonte e irradiò il suo volto di una calda luce rosata. Cassia, trascredendo il regolamento, fissò per alcuni istanti l'astro, senza socchiudere le palpebre, come se fosse cieco. Una pallottola gli trapassò un occhio. Allora si buttò le mani sul volto come se volesse proteggerlo da nuovi colpi o asciugarsi le lacrime di sangue che gli colavano giù per la guancia. Lentamente si lasciò cadere in ginocchio sui corpi dei compagni e vi rimase finché un'altra pallottola non gli centrò finalmente la fronte, freddandolo. Questi erano Needle Factory con il brano, questo lo leggi tu, Wirtschaftswunder, miracolo economico. E quindi passiamo alla controinformazione, che è meglio, forse l'italiano un pochino meglio lo riesco a leggere, un pochino meglio. Leggiamo degli aggiornamenti dalla Repubblica Ceca, dove c'è stata una massiccia operazione della polizia contro gli anarchici, in cui ci sono stati alcuni arresti. Non pubblichiamo tutto il testo che ha fatto circolare la Croce Nera Anarchica Ceca, perché non ne condividiamo l'ultima parte, quindi per evitare la critica abbiamo evitato di mettere l'ultima parte. Allora, il testo dice: a seguito di massicci attacchi contro gli anarchici avvenuti martedì notte, tre persone sono state accusate di terrorismo e arrestate. Tutta l'operazione di polizia, chiamata Fenice, è iniziata nelle prime ore del mattino con la perquisizione di numerosi appartamenti privati e del centro sociale Ateneo nella città di Most. Sono state arrestate circa 20 persone, parte di loro solo interrogate e immediatamente rilasciate. Tre persone sono state accusate di tentato terrorismo, 12-20 anni di carcere, mentre alcune altre sono ufficialmente indagate per lo stesso reato, ma rilasciate. Sono state accusate anche gli altri per non aver segnalato questo grave crimine. Tre persone sono detenute, dato che alcuni server sono stati confiscati, la maggior parte dei siti web anarchici ciechi sono giù. La versione della polizia dice che un gruppo di persone ha formato una cellula autonoma che ha pianificato l'attacco ad un treno con le armi contro le macchine Hyundai con le Molotov. Si trattava di un gruppo organizzato perché uno di loro avrebbe dovuto comprare la benzina mentre gli altri le bottiglie. La polizia collega gli stessi anche ad alcuni casi di attacco incendiario, la maggior parte di loro divertenti. Nell'articolo, che poi potete vedere attraverso il link che c'è scritto su immagini di uno dei veicoli della polizia che hanno tentato di bruciare, è chiaro che non c'era nessun danno, ma è comunque considerato terrorismo. Croce Nera Anarchica della Repubblica Ceca. E questo era il testo di controinformazione per quanto riguarda l'operazione in Repubblica Ceca, che ricordo è molto simile a tutto quello che sta accadendo in tutta Europa nell'ultimo periodo. Lo ricordo, è partito non perché uno si voglia fare, però è partito anche dalla visita dei servizi segreti croati contro i due compagni, uno che è il compagno che porta avanti il sito di Anarchist Library, che c'è il server dove ospita Radiazione, e l'altro contro la compagna di Radiazione in Croazia. E poi dopo è continuato con l'altra operazione in Inghilterra, che fortunatamente non ha avuto ancora esiti, però ne hanno parlato i giornali, contro i compagni inglesi che a dir degli oppressori farebbero parte di una cellula autonoma composta da inglesi e greci, quindi in Repubblica Ceca, la Croazia, in Inghilterra la storia non cambia. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Biotech, il brano è Human, e poi dopo si ritorna qui con l'ultima lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Ma l'ultima davvero. L'ultima davvero. Con questo chiudiamo il libro, poi da lunedì prossimo un altro libro. Se ci mandate i consigli, bene, altrimenti lo scegliamo noi. Lexus 9. No response. Le truppe polacche avanzavano da ovest su tutto il fronte. Il fallimento dell'evacuazione sistematica di Smolensk provocò il fuggi-fuggi dei bolscevichi da Minsk. I primi a darsela a gambe furono, naturalmente, i caporioni sovietici. Le strade erano ingombre di automezzi, di carriaggi e altri che fuggivano verso oriente. Monich tagliò la strada a parecchi reparti nemici e isolati, attaccandoli di sorpresa e decimandoli. Anche il suo gruppo subì gravi perdite. Su 50 uomini, 11 furono uccisi e una ventina feriti. Lo stesso Monich si prese una pallottola al braccio sinistro. Ritiratosi nei boschi coi superstiti, affidò a Jan il compito, già assolto più volte, di portare un messaggio urgente a Omienski. Jan era lieto di poter ogni tanto recarsi a Minsk, perché ciò gli offriva l'occasione di vedere Nashtka e di sistemare le sue cose. Lasciò l'accampamento di notte e verso l'alba già bussava alla porta di Viktor. Questi gli venne subito ad aprire e man mano che leggeva il messaggio dava segni di nervosismo, il suo volto si incupiva. Infine sbottò con la voce rauca dall'ira: «Pazzo! Mentecatto! Si butta allo sbaraglio di imprese inutili e poi non si fa vivo dove il suo appoggio sarebbe prezioso! Gli avevo scritto, sì, di tenersi alle porte di Minsk in stretto collegamento con me. La città ora sarebbe già nelle nostre mani». Si mise a passeggiare su e giù per la stanza stringendo i pugni. Jan lo seguiva con gli occhi senza ben comprendere perché fosse così infuriato. Jan era stanchissimo e si sentiva cascar dal sonno. A un certo punto Omienski si fermò davanti a lui. «Rimani qui, ti chiuderò dentro a chiave, io tornerò tra un paio d'ore circa, se hai fame c'è qualcosa nella credenza in cucina». «Beh, io preferisco schiacciare un sonnellino, chissà che sogni che si fanno». «Beh, allora fai quel che vuoi». Dopo pochi minuti Jan già dormiva sul divano. Ma verso mezzogiorno lo svegliò un rumore sottile, aprì gli occhi e vide Omienski che stava scostando l'armadio. Dietro di esso, in un incavo dalla parete, si trovavano alcuni fucili a ripetizione tedeschi dei Mauser e molti caricatori. Scelse un'arma, vi introdusse un caricatore e se ne ficcò una dozzina, sì, un po' di loro in ogni tasca. Poi si avvicinò alla finestra e la spalancò. La strada era ingombra di salmerie e di carriaggi che si affrettavano a uscire dalla città. Si udivano gli urli e le bestemmie dei conducenti, lo scalpitar degli zoccoli dei cavalli sul selciato e il cigolio dei carri, zeppi di bottino e di soldati rivoluzionari. «Beh, che hai intenzione di fare?» chiese Jan all'amico accostandosi alla finestra. Omienski, senza voltare il capo, rispose piano: «Aspetto che finisca questa colonna. La prossima non passerà». «È impazzito», pensò Jan. Guardò in strada e vide che passava la coda della colonna. Un'altra ne spuntò a circa 300 metri dalla prima, in cima alla collinetta d'oro. D'improvviso Omienski, con sorprendente agilità, balzò sul davanzale e di là, in strada, scomparendo sotto il portone della centrale elettrica. Jan esitò un attimo, poi anche lui decise di agire, benché non avesse la minima idea di ciò che gli avrebbe fatto. Andò a prendere un fucile, lo caricò e si riempì le tasche di caricatori. Poi si appostò alla finestra, tenendo d'occhio la via Zakharievska, dalla quale doveva spuntare, sì, per forza, la testa della colonna. Quando vide apparire il primo furgone, saltò giù in strada e, a un cenno di Omienski, l'attraversò di corsa, andando ad appostarsi in una rientranza dell'edificio di fronte, il ginnasio femminile. La colonna si trovava ormai a un centinaio di metri. La giornata, era terribilmente afosa. D'improvviso udì la voce dell'amico: «Spara sui cavalli!» Da quando faceva parte della banda di Monich, Jan si era addestrato notevolmente al tiro. E allora prese la mira, protetto dallo spigolo del muro, e fece fuoco. una, due, tre volte fino a esaurimento del caricatore. E Uminsky fece lo stesso. La testa della colonna fu presa da un panico indescrivibile. Il cavallo del primo furgone fece uno scarto a sinistra e poi stramazzò sul marciapiede rovesciando il veicolo e i soldati che vi erano sopra. Il secondo cavallo, pure ferito, si impennò e, nitrendo dal dolore, si mise a correre a galoppo sfrenato verso lo stretto ponte sullo Svilovice. Ma il carro, che sbandava paurosamente a destra e a sinistra, sfondò il parapetto e precipitò giù lungo nel fiume. La strada era ormai ingombra di carri rovesciati e di cavalli impazziti dal terrore. L'intera colonna si fermò. I soldati correvano qua e là in mezzo al polverone e cercavano di far deviare i carri in una strada laterale per sfuggire alla gragnola di proiettili. I due tiratori, solo due, avevano un facile bersaglio in quella vivente barricata di uomini e di quadrupedi. Pochi colpi andavano a vuoto. Un secco schianto sopra la sua testa, seguito da una caduta di pezzi di intonaco, Jan avvertì che il suo nascondiglio era stato individuato e allora si strinse ancora di più al muro, asciugandosi la fronte madida di sudore. I colpi in arrivo si facevano sempre più nutriti. I bolscevichi, riavutisi dalla sorpresa, incominciavano a reagire. Victor e Jan li bersagliavano senza posa, sparando un caricatore dietro l'altro. A un certo punto Jan vide Uminsky appoggiarsi al muro e poi accasciarsi, abbandonando l'arma. Il suo primo impulso fu di correre da lui, ma si rese subito conto che non avrebbe potuto attraversare la strada tutta fischiante di proiettili, e allora riprese a sparare in direzione della barricata. I bolscevichi credevano probabilmente che la via fosse tutta infestata di cecchini franchi tiratori. Senza interrompere per un solo attimo il tiro, Jan si abbandonava tutto a quel folle gioco d'azzardo in cui la posta della sua vita era sempre più in rischio. A ogni attimo che passava non gli balenò neppure il pensiero che avrebbe potuto ritirarsi finché era ancora in tempo. Ora il sudore gli bagnava il viso e aveva la gola arsa. Si ripeteva di continuo la parola d'ordine di Victor Uminsky: non passeranno di qui. Le pallottole fischiavano sempre più fitte intorno alla sua posizione. D'improvviso, mentre introduceva un nuovo caricatore e si accorgeva con sgomento che era l'ultimo, ebbe la sensazione che qualcuno lo colpisse con estrema violenza sulla coscia e poi sulla spalla. Si voltò con un gemito, ma non c'era nessuno. Chi era Ulisse? Comprese di essere stato raggiunto da due pallottole. Abbandonò l'arma e sgusciò dal suo nascondiglio infilando la via Sadova. Le orecchie gli rombavano e le macchie scure gli ballavano davanti agli occhi. Non ce la faceva più a reggersi in piedi. Si trascinò carponi fino al primo portone e di là si lasciò scivolare giù per la scala della cantina. Sentiva il bisogno degli animali feriti di rintanarsi sottoterra. Il sotterraneo era fresco e ciò gli procurò sollievo, ma improvvisamente aveva una sete atroce e la gamba gli pesava come se fosse di piombo. Si sdraiò supino sul terreno umido e tese l'orecchio cercando di capire ciò che fuori stava accadendo. Nessuno l'avrebbe scoperto laggiù. Improvvisamente ebbe uno sbocco di sangue, poi, subito dopo, seguì un altro. Poco a poco, il mondo esterno si allontanò da lui, finché cessò di esistere. Quello stesso giorno, 19 agosto, le truppe polacche entrarono in Minsk e la città tirò un respiro di sollievo. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni.